Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Monaco, 7 luglio 1974. Le note dell'inno olandese fanno da preludio alla finale del campionato del mondo di calcio. I padroni di casa della Germania Ovest si trovano davanti l'Olanda. Non è soltanto la sfida tra due delle nazionali più forti d'Europa, ma il confronto tra due modi differenti di intendere il calcio. Da una parte l'Olanda e il suo calcio totale. Dall'altra la Germania, con il suo pragmatismo e la sua concretezza. L'Olanda fino a questo momento ha offerto il miglior calcio del torneo e alla prima partecipazione alla fase finale di un mondiale. Ciò nonostante, non ha mostrato alcun timore reverenziale e ha vinto 5 delle 6 partite disputate, concedendo solo un pareggio a reti inviolate nel primo turno. La Germania, invece, gioca davanti al proprio pubblico e dà la caccia al secondo titolo mondiale dopo quello ottenuto nel 1954 e dopo la finale del 1966. Anche i tedeschi hanno vinto 5 incontri su 6 nei due gironi eliminatori. Hanno macchiato il loro percorso solo con una bruciante sconfitta dalla Germania Est. E dato il fattore campo, si presentano con i favori del pronostico. Prima di entrare nel vivo di questo confronto, andiamo a scoprire qualcosa su queste due scuole calcistiche. La definizione calcio totale indica un modulo con un sistema di schemi complesso e affascinante. In pratica, tutti i ruoli di una squadra sono perfettamente intercambiabili tra loro e durante una partita i giocatori continuano a scambiarsi le posizioni in una continua e vorticosa rotazione. Così attaccanti finiscono a difendere e difensori attaccano. Il risultato è sempre lo spettacolo. Il modulo nasce in Olanda. Si racconta che il pioniere di questo modo di giocare sia stato Jack Reynolds, allenatore dell'Ajax in periodi diversi, compresi tra il 1915 e il 1947. Il vero padre del calcio totale, però, si chiama Rinus Michels. Soprannominato il generale, Michels negli anni 60 diventa l'allenatore dell'Ajax di Amsterdam e inventa un modulo di gioco assolutamente in anticipo sui tempi. 4 difensori in linea che per la prima volta difendono a zona, tattica del fuorigioco applicata ossessivamente, 3 centrocampisti e 3 attaccanti che si producono in un pressing asfissiante e si scambiano continuamente ruolo e posizione. L'Ajax di Michels, a cavallo tra i 60 e i 70, diventa una delle squadre più spettacolari d'Europa. Nel 1969, per la prima volta, la squadra di Amsterdam raggiunge la finale di Coppa dei Campioni, ma perde dal Milan di Nereo Rocco, squadra che gioca all'antica, con un modulo di gioco estremamente difensivo. Salta molto bene Sormani, Pulshoff, Sormani, traversone, colpo di testa di Prati, ed è gol! Finisce 4-1 con 3 gol di Pierino Prati. Negli anni successivi, dal 1971 al 1974, l'Ajax vince 3 Coppe dei Campioni. Il modulo di gioco olandese e l'Ajax diventano un simbolo negli anni della contestazione giovanile. Un simbolo di rottura, di innovazione, di freschezza. Una sorta di avanguardia applicata al pallone. Migliaia di giovani in tutta Europa si appassionano alle gesta della squadra olandese. Così, nel 1974, Rinus Michels viene chiamato a dirigere la nazionale olandese ai mondiali tedeschi. Deve portare in nazionale il gioco e la qualità mostrata nell'Ajax. Si affida al blocco della sua ex squadra, da cui prende 5 giocatori, e a quello di un'altra squadra olandese che applica il calcio totale, il Feyenoord di Rotterdam, da cui ne prende altri 5. A sorpresa, tra i pali, schiera uno sconosciuto portiere preso da una serie minore e arriva dritto in finale, vincendo tutte le partite, segnando 14 gol e incassandone uno solo. La Germania Ovest, invece, è la squadra campione d'Europa in carica. Gioca un calcio concreto e pragmatico, senza fronzoli. In finale anche i tedeschi arrivano vincendo tutte le gare, segnando però 11 reti e subendone 3. In campo, l'allenatore, Helmut Schön, schiera la squadra con un modulo molto più legato alla tradizione, con un libero dietro la difesa e marcature a uomo. Sono 80.000 gli spettatori accorsi oggi all'Olympiastadion, uno stadio che è un pezzo di storia di Monaco di Baviera. Costruito in occasione delle Olimpiadi del 1972, quelle funestate dall'uccisione di 11 atleti israeliani, per intenderci, lo stadio è un piccolo gioiello architettonico. Gremito in ogni ordine di posto, vede naturalmente la netta prevalenza di tifosi tedeschi, convinti della vittoria della propria nazionale. Meno convinti del successo tedesco sono i bookmakers inglesi. Per loro la nazionale favorita resta quella olandese, quotata a 1. A 2 la nazionale tedesca. Prima dell'inizio del match, i due capitani si stringono la mano a centrocampo e salutano l'arbitro. Il direttore di gara è il signor Taylor, inglese. L'Inghilterra ha un debito calcistico con i tedeschi. Nel 1966, infatti, la squadra britannica aveva sconfitto i tedeschi nella finale mondiale con un gol inesistente. In Olanda si teme che l'arbitro possa in qualche modo favorire i tedeschi per saldare il conto. Pensieri che indubbiamente non attraversano la mente dei due capitani che a centrocampo si fanno l'in bocca al lupo. Sono i due giocatori più rappresentativi delle due squadre e due dei più grandi giocatori di sempre. Entrambi cercano la definitiva consacrazione con il titolo mondiale. Sanno che i loro destini si incroceranno sul rettangolo di gioco e che solo uno di loro potrà entrare nella storia. Sono Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Let's take our vanity. Franz Beckenbauer nasce a Giesing, vicino a Monaco, l'11 settembre 1945. La Germania è occupata dagli alleati ed è ridotta a un cumulo di macerie. Anche la sua famiglia è provata dalla guerra. Così Franz inizia a tirare calci a un pallone di stracci, quando ha solo 5 anni, tra le strade in via di ricostruzione. Era un periodo duro. Quasi tutte le famiglie vivevano in condizioni di estrema povertà, con grande difficoltà. Per noi ragazzi giocare a pallone era il passatempo principale. Non costava nulla, bastava farci una palla con degli stracci ed era fatta. La famiglia Beckenbauer, però, osservando crescere il piccolo Franz, ne rileva subito il grande talento. Il fratello più grande lo spinge a iscriversi nel Monaco 1906, la terza squadra della città bavarese. I genitori acconsentono, spinti anche dall'ottimo rendimento scolastico del ragazzo, che denota anche un'intelligenza viva e precoce. Da ragazzo Beckenbauer gioca a centravanti. Sì, giocavo in attacco. Credo che questo mi abbia permesso di sviluppare una tecnica individuale discreta che poi mi è stata utile per interpretare in maniera originale il mio vero ruolo, anni dopo. Franz, alla fine degli anni 50, viene seguito da alcuni osservatori del Monaco 1860, la prima squadra della città. È a un passo dall'accordo, quando in una finale di un torneo giovanile, proprio contro quella che avrebbe potuto essere la sua futura squadra, scoppia una feroce rissa. Franz cancella ogni intenzione di trasferirsi al Monaco 1860 e si presenta nella sede di un'altra squadra bavarese, il Bayern Monaco. Fino ad allora un team mediocre e scarsamente titolato a livello nazionale. Franz viene preso e inserito immediatamente nelle giovanili. La Germania, fino al 1963, non ha un vero e proprio campionato nazionale, bensì due leghe, quella nord e quella sud. La Bundesliga, come oggi la conosciamo, viene istituita l'11 maggio 1963, ma il Bayern non viene inizialmente incluso nei team che ne fanno parte. Viene promosso l'anno successivo, il 1964, che è anche il primo anno di Beckenbauer in prima squadra. Accanto a lui diversi giovani che faranno la storia del calcio tedesco e che ritroveremo nella finale di Monaco da cui siamo partiti. Il portiere Sepp Maier, ad esempio, o l'attaccante Gerd Müller, capocannoniere del Mondiale di Messico 70. Il nostro allenatore era Zlato Tchaikovsky, un ex grande calciatore jugoslavo. Per me è stato importantissimo, perché fu lui che cominciò ad arretrare il mio raggio d'azione, schierandomi come mediano. Il Bayern Monaco vince subito la Coppa di Germania e Beckenbauer si impone come miglior giocatore del torneo. Un talento così forte che l'allenatore della nazionale, Helmut Schön, lo convoca per i mondiali del 1966. Mondiali che si concludono con una cocente delusione per il futuro Kaiser. La Germania raggiunge la finale, gioca con i padroni di casa dell'Inghilterra. I tempi regolamentari finiscono 2-2 con i tedeschi che agguantano il pareggio al 90esimo. Al minuto 101, il fattaccio. L'attaccante inglese Hurst calcia in porta, colpisce la traversa, la palla rimbalza sulla linea ed esce. Per l'arbitro, incredibilmente, è gol. I tedeschi, frastornati, incassano il quarto gol. Beckenbauer impara subito a conoscere le amarezze del calcio mondiale. Il mondiale del 1966, comunque, consacra il talento di Beckenbauer davanti al mondo intero. Il campione tedesco mette a segno 2 reti con la Svizzera nella partita d'esordio. In semifinale segna il gol della vittoria della Germania sull'Unione Sovietica, battendo con un tiro imparabile il grande Yashin, il ragno nero, il portiere più forte del mondo, che gli tributa l'omaggio più grande. Incassato il gol, uno splendido, perfetto tiro dalla distanza, corre verso il tedesco, si complimenta con lui, lo abbraccia insieme ai compagni. Beckenbauer diventa il Kaiser del calcio mondiale. Nella finale con gli inglesi, il CT Helmut Schön ha un'intuizione geniale. Togliere Franz da centrocampo e metterlo in difesa, anzi, alle spalle della difesa, nel ruolo ormai estinto del libero. In sostanza, un difensore appunto libero da marcature a uomo, pronto a raddoppiare, pronto a impostare il gioco e a sganciarsi. Beckenbauer interpreta il ruolo come nessun altro al mondo e nel 1967, insieme ai gol di Gerd Müller, regala al Bayern Monaco la Coppa delle Coppe. Nel 1969, per il Bayern Monaco, arriva il primo titolo nazionale e con esso la possibilità di partecipare alla Coppa dei Campioni. La prima partecipazione è disastrosa, fuori al primo turno. Le successive, guadagnate attraverso nuovi titoli nazionali, sono un po' più incoraggianti, ma il dominio dell'Ajax di un certo Johan Cruyff, che ritroveremo più avanti, tiene i bavaresi lontani dal titolo. Intanto, dopo i mondiali messicani del 1970, in cui Beckenbauer si mette in luce come il miglior difensore del torneo, arriva il primo pallone d'oro. Per la stampa brasiliana, ad esempio, Franz è senza dubbio il miglior giocatore europeo di tutti i tempi. La partita più bella di quel mondiale messicano è senza dubbio quella contro l'Italia. Purtroppo persa per 4-3. Una partita giocata senza schemi tattici, un match di puro agonismo. Io giocai per non so quanti minuti con una spalla fasciata, ma la carica era tale che non sentivo dolore. È un ricordo eccezionale. La Germania perde in semifinale con l'Italia e ancora una volta il mondiale sfugge al Kaiser. Ormai capitano della nazionale, però, Franz non si fa sfuggire il titolo europeo. Nel 1972 Beckenbauer agguanta il titolo di campione d'Europa. In Belgio, a Bruxelles, davanti a 40.000 spettatori, i tedeschi sconfiggono per 3-0 l'Unione Sovietica, laureandosi campioni d'Europa. Nel 1973 Beckenbauer bissa la corona europea, raggiungendo anche il titolo per club. Riesce infatti a portare a casa un altro titolo mancante al suo palmarès, la Coppa dei Campioni, che il suo Bayern Monaco vince per 3 anni di fila, stabilendo un ciclo vincente straordinario. Siamo al 1974. I mondiali si giocano in Germania e l'occasione è perfetta per colmare il vuoto in bacheca e portarsi a casa il titolo che ancora sfugge. Franz vuole il mondiale per consacrare definitivamente la sua carriera. La Germania non entusiasma nella strada verso la finale, ma gioca con molta concretezza e vince tutte le gare. Beckenbauer è spesso il migliore in campo, guidando la difesa con classe e precisione. La finale, però, si preannuncia come un match completamente diverso. Di fronte c'è l'Olanda del grande Krauf. Spettacolare, spregiudicata e entusiasmante. Un banco di prova incredibile per ogni difensore. Franz sa di essere chiamato a un compito difficilissimo. Pochi minuti prima della gara stringe la mano del capitano olandese. È proprio Johan Cruyff, anche lui a caccia del titolo per immortalare una carriera straordinaria. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati a Monaco. È il 7 luglio 1974. Si gioca la finale dei campionati del mondo di calcio. Uno di fronte all'altro, i capitani di Germania e Olanda, Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Sono considerati i giocatori più forti d'Europa. Entrambi sono alla ricerca del titolo che potrebbe consegnarli alla leggenda dello sport. Beckenbauer ci è già andato vicino. Finale nel 1966 a Londra, semifinale nel 1970 a Città del Messico. Per Johan Cruyff è la prima volta, il primo mondiale. Allora scopriamo insieme chi è il leader della squadra olandese. Johan Cruyff nasce ad Amsterdam nel 1947. Appassionato di calcio fin da molto piccolo, entra nel settore giovanile dell'Ajax a soli 10 anni e diventa una sorta di mascotte del team olandese. Fisico gracilissimo e palleggio funambolico, il piccolo Cruyff si fa ben volere da tecnici e collaboratori, trovando nell'Ajax una sorta di seconda famiglia. Fatto importantissimo questo, quando la sua vera famiglia va incontro al dramma. Il padre muore di attacco cardiaco quando Johan ha solo 12 anni e arrivano ingenti difficoltà economiche quando la madre perde il lavoro. In quel periodo mi aiutò molto il presidente dell'Ajax, Jaap van Praag, che trovò un impiego a mia mamma come donna delle pulizie allo stadio e nel bar del centro di allenamenti. Per me, in quel periodo, davvero l'Ajax era come casa mia. Calcisticamente parlando, le sue doti tecniche sono così spiccate che l'allenatore della prima squadra, V. Buckingham, decide di seguirlo personalmente. Soprattutto si lavora sul fisico di Johan, elemento che rimarrà sempre il suo tallone d'Achille. In ogni caso, nelle squadre giovanili dei Lancieri, segna grappoli di gol, tanto che nel 1963, a soli 16 anni, viene buttato in prima squadra. Anche in prima squadra diventa titolare a suon di gol. Ma più della sua capacità realizzativa, impressionano soprattutto il dinamismo, il dribbling fulmineo, la capacità di muoversi a tutto campo, l'intelligenza tattica. Un fenomeno che diviene subito l'idolo dei tifosi. La vera svolta per me è avvenuta nel 1965, quando sulla panchina dell'Ajax è arrivato Rinus Michels. Ha cambiato completamente la mentalità della squadra e mi ha insegnato delle cose sul calcio che per me sono state fondamentali. Michels arriva all'Ajax nel gennaio 1965, dopo l'esonero di Buckingham. La sua idea del calcio è innovativa e rivoluzionaria. Il calcio totale. Niente più ruoli fissi, ma una girandola di spostamenti vorticose e avvolgente. Gioco a zona, pressing. In poche parole, spettacolo. Tutto questo non si può raggiungere, però, senza sforzi. Michels impone alla squadra una disciplina rigida, ferrea e allenamenti durissimi e massacranti. I risultati non si fanno attendere, prima in patria con 3 campionati consecutivi, poi in Europa, con la prima finale di Coppa dei Campioni, persa contro il Milan. In quel caso Johan viene marcato a uomo in maniera molto efficace da un certo Giovanni Trapattoni. Una lezione di umiltà che Cruyff e l'Ajax capitalizzano molto bene. L'appuntamento con la Coppa dei Campioni è solo rimandato. Dal 71 al 73 arrivano tre Coppe dei Campioni consecutive, che proiettano l'Ajax di Michels e di Cruyff nell'Olimpo del calcio mondiale. Complessivamente, a livello internazionale, l'Ajax vince tra il 1965 e il 1973 sei campionati, tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e due Supercoppe UEFA. Cruyff gioca in un ruolo che non è ben definibile. Una specie di centravanti di manovra. È una punta che all'occorrenza parte da molto indietro, che non si risparmia la fase difensiva, che crea gioco e si fa trovare sempre dove serve. Ciò che lo caratterizza maggiormente, soprattutto nella fase della piena maturità agonistica, è il dribbling. Fenomenale, esaltante, imprendibile. Quando Johan parte in progressione, palla al piede, nei primi metri, è imprendibile per chiunque. Le sue serpentine sono pura poesia. Ambidestro, geniale, Johan diventa presto, insieme a Beckenbauer, il giocatore più forte d'Europa. I due si avvicendano anche nelle vittorie del Pallone d'Oro e danno vita a una splendida rivalità a distanza, che si concretizza poi nelle sfide europee tra Bayern Monaco e Ajax. Tre sono i palloni d'oro che Cruyff vince e che lo consegnano alla leggenda. È l'unico, insieme a Marco van Basten e a Michel Platini, ad essersi aggiudicato tre palloni d'oro. Non solo. Cruyff viene sempre accostato a Pelé e Maradona nelle bizzarre classifiche dei più grandi di tutti i tempi. Nel 1973 Cruyff lascia l'Ajax e passa al Barcellona per una cifra record. In Catalogna ritrova il vecchio allenatore dei tempi dell'Ajax, Michels. Il compito è quello di riportare a Barcellona la Liga Spagnola, che manca da molto tempo. I due ci riescono al primo colpo. Per poter aspirare ad essere davvero il più grande, però, Johan deve portare a casa un mondiale. L'Olanda non vi ha mai nemmeno partecipato, prima del 1974. Ai mondiali tedeschi, invece, gli arancioni arrivano e da favoriti, considerando lo spettacolare cammino di qualificazione. Sulla panchina della nazionale siede proprio Rinus Michels, che importa nel gruppo della selezione olandese i principi del calcio totale che hanno reso celebre il suo Ajax. L'Olanda, peraltro, non è solo Johan Cruyff. Neeskens, Kroll, Rensenbrink sono solo alcuni dei nomi di quella compagine straordinaria. Sin dalla prima partita, gli arancioni danno spettacolo. Nel girone iniziale, Cruyff e compagni esordiscono contro l'Uruguay, due volte campione del mondo. Non c'è partita. L'Olanda dimostra pienamente di non avvertire alcuna tensione per il debutto mondiale. Finisce 2-0, ma il risultato avrebbe potuto essere più rotondo. Nel secondo match invece avvertimmo un po' di tensione. E quello contro la Svezia fu l'unico match di quel mondiale in cui non riuscimmo assolutamente ad andare in gol. Con la Svezia finisce 0-0. Nel match successivo contro la Bulgaria, l'Olanda si assicura il primo posto nel girone, strapazzando la Bulgaria con un secco 4-1. Il capolavoro olandese però arriva nel secondo girone. Gli arancioni se la devono vedere con Argentina, Brasile e Germania Est. L'esordio è contro i biancocelesti. Quella contro l'Argentina è stata probabilmente la miglior partita del nostro mondiale. Una gara quasi perfetta sotto tutti i punti di vista. In un mondiale per la prima volta dopo tanti anni orfano di Pelé, Cruyff è la vera stella. Contro l'Argentina, il capitano olandese sciorina tutto il suo repertorio, mette a segno due gol ed esibisce dribbling, accelerazioni, serpentine. Finisce 4-0 con i biancocelesti confusi e umiliati. Ora tocca al Brasile, in una partita che vale la finale del campionato del mondo. I verdeoro sono i campioni del mondo in carica. Benché orfani di Pelé, la loro speranza è di raggiungere la quinta finale mondiale. Quella sera, però, il vero brasiliano sembra Cruyff, con un gol, un assist e dribbling ubriacanti che aprono in due la difesa carioca. 2-0 e all'Olanda si spalancano le porte della finale di Monaco. Avversari tedeschi padroni di casa guidati da Beckenbauer. Uno scontro tra calcio totale e concretezza assoluta. Tra poco, a destini incrociati. She was a fast machine, she kept the motor clean. She was the best damn woman that I... Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo a Monaco, è il 7 luglio 1974. Per la finale dei campionati del mondo di calcio si stanno per affrontare Germania e Olanda. Per l'Olanda è una prima volta assoluta in un mondiale e in una finale internazionale. La Germania, invece, è a caccia del secondo titolo mondiale. Uno di fronte all'altro, i due calciatori più forti d'Europa, Johan Cruyff e Franz Beckenbauer. Sono 80.000 gli spettatori presenti, naturalmente in larga parte sostenitori della squadra di casa. Arbitra il signor Taylor, inglese. Inizia la finale. Succede subito l'impensabile. Gli olandesi battono il calcio d'inizio e lentamente iniziano a tessere una rete di passaggi avvolgente e precisa. Cruyff, Van Hanegem, Neeskens, Kroll, Rijs Berken. I tedeschi non toccano palla mai, nemmeno una volta. 15 tocchi, poi la palla torna a Johan Cruyff, che accelera. Punta dritto verso l'area, salta i tedeschi come birilli, quando il difensore Bertie Fouts lo stende. È rigore. L'Olympiastadion ammutolisce. È un inizio shock. L'Olanda ha un rigore a favore al primo minuto di gioco, ma soprattutto i tedeschi non hanno mai toccato palla, nemmeno una volta. Il rigore fischiato dall'arbitro Taylor dopo 53 secondi di dominio olandese è il primo fischiato in una finale mondiale. Beckenbauer, seccato, si avvicina all'arbitro. «You are an Englishman» è il suo insulto. «Sei proprio un inglese». Dal dischetto va Neeskens. E non sbaglia. A questo punto, più o meno tutti si attendono una mattanza, o la temono, come gli spettatori tedeschi presenti quel pomeriggio di luglio. I piani tattici dei tedeschi crollano come un castello di carte. Ora bisogna attaccare, scoprirsi, aprirsi al rischio del funambolico contropiede degli olandesi, delle serpentine di Cruyff. Contro ogni previsione, invece, il giocattolo olandese si inceppa sul più bello e la reazione tedesca è veemente sorprendente. I've put my trust. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.